Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno a tutti, 7:31 minuti, buongiorno a tutti cari ascoltatori in diretta dallo studio di Radio 24 in trasferta al Festival dell'Economia di Trento. Saluti e abbracci da tutta la squadra di Radio 24, capitanata da Elena Ligios e Davide Cioccia, con Marco Lombardi, Andrea Roccabella in regia e poi la regia di Milano la salutiamo, Filippo Aureggi. Buongiorno da Alessio Maurizi. Allora, cari ascoltatori, sono le 7:31. Abbiamo appena detto, se volete farvi un giro qua dalle parti di Trento per sentire le conferenze, ci sono tutti i faccioni, è sempre bello la mattina transitare nella via centrale di Trento e vedere i faccioni dei grandi economisti appesi che ci aspettano e ci guardano dall'alto, da Paul Krugman a Zygmunt Bauman, che ormai ci guarda sicuramente dall'alto dei cieli. E salutiamo anche lui naturalmente per queste giornate di dibattiti, di conferenze, e Radio 24 trasmette proprio in diretta da qua. Visto che stiamo per iniziare la rassegna stampa, iniziamola guardando i giornali locali, perché ieri c'è stata una protesta contro il ministro della salute Lorenzin. È uno dei titoli principali almeno sul Trentino di oggi. Poi sui giornali, tanto Trump, tanto clima, tante baruffa per la legge elettorale in Italia. Ma come sempre iniziamo, vi ricordo i nostri contatti: 349-238-6666, la pagina Facebook Si può fare - Radio 24, l'account di Twitter è @ Si può fare 24. Vai. E allora, dicevamo, in omaggio alla terra che ci ospita, tra l'altro terra ospitale, ricordiamolo, diciamolo, perché ancora una volta abbiamo ricevuto saluti, ringraziamenti e anche l'omaggio dalla signora Renata, che puntualmente, come ogni anno, ci ha portato la sua crostata, la sua torta, questa volta una sbrisolona, credo che sia. E quindi grazie ancora a Renata, che non si dica che l'accoglienza del nord Italia, del Trentino e di Trento in particolare, sia in qualche modo, possa essere in qualche modo non all'altezza di quella del resto d'Italia. Non è così, assolutamente. Il grande calore trentino e di Trento lo sentiamo anche a livello di temperature, bisogna dirlo, ogni volta che siamo qua, molto volentieri. Cominciamo però la lettura dei giornali proprio con un omaggio al festival e a quello che è accaduto ieri, perché il ministro della salute Lorenzin titola il Trentino: vaccini, famiglie contro il ministro. Ieri in 400 per dire no all'obbligo di vaccinazione, la Lorenzin al festival: non credete alle bufale, non crediate alle bufale. La foto mostra la folla di appunto qualche centinaio di persone che ieri ha protestato con tanto di cartelli no all'obbligatorietà, no ai vaccini obbligatori, eccetera eccetera. Bisogna prendere atto insomma, di una strisciante reazione negativa da parte di ampi strati, si deve dire la verità, della società, delle persone, dei genitori che insomma, faticano a prendere atto di questo nuovo decreto che prevede un obbligo di 12 vaccini, di 12 vaccinazioni. Sommessamente forse si può dire che, fermo restando l'importanza e l'obiettivo della copertura vaccinale che anche altri paesi, quasi tutti i paesi sviluppati al mondo hanno, forse sull'obbligatorietà si poteva lavorare diversamente, questo è stato già detto, ma insomma tenendo a mente esempi come la Gran Bretagna, dove pur non essendoci un obbligo che fa a capo alle persone, c'è un obbligo per esempio che riguarda i medici di raggiungere coperture vaccinali, insomma coinvolgere i medici, coinvolgere i pediatri, come ha fatto anche la sanità lombarda recentemente, anziché alzare questo muro che molti ancora oggi dimostrano di non accettare, di non volere, il muro dell'obbligatorietà delle vaccinazioni. Finiamo con questa segnalazione e andiamo sui giornali principali che, come dicevamo, titolano principalmente su due argomenti che sono la baruffa preelettorale con l'intesa sul sistema pseudo tedesco, chiamiamolo così, voluta da Renzi con Berlusconi e Grillo e tutte le conseguenze del caso, ma poi ancora gli echi della decisione del presidente americano Trump di disdettare, abbandonare l'accordo di Parigi sul clima, insomma mollare il resto del mondo in prima linea su questa battaglia, anche se lui ha detto gli Stati Uniti non abbandoneranno questo terreno, continueranno ad impegnarsi per l'ambiente, ma in un altro modo, non collegialmente, non seguendo gli accordi di Parigi, non finanziando quegli stessi accordi. Clima a rischio il patto, rivolta contro Trump, titola il Corriere, anche Repubblica, il mondo contro Trump, Macron, scienziati americani, venite qua. Poi la Stampa con Gentiloni, sul clima rilanciamo l'Europa e intese con l'Africa. Ma insomma un po' ovunque il titolo è questo. E allora possiamo vedere anche velocemente qualche approfondimento. Per esempio, una in prima fila, una barricadera, a difendere gli accordi di Parigi è il sindaco di Parigi Anne Hidalgo, che è anche presidente del gruppo di città che si sono impegnate con il C40 ad implementare, a portare avanti a livello proprio delle città gli accordi di Parigi. E lei dice: non ci preoccupa il fatto che Trump abbia disdettato gli accordi, il leader americano è un uomo del passato, non abbiamo un pianeta B, ma andiamo avanti, perché se a dicembre 2015 abbiamo raggiunto quel risultato diplomatico straordinario, è stato anche merito di attori non tradizionali, le organizzazioni non governative, le grandi aziende del settore privato e poi le città, le grandi metropoli. Noi siamo i territori democratici dove si prendono le decisioni, le città hanno un margine di manovra talvolta più ampio degli stati. E anche grazie all'ex sindaco di New York, Michael Bloomberg, oggi inviato dell'ONU, è stato pure merito nostro se quell'intesa è stata raggiunta. Ora non ci fermiamo. Fra l'altro lo stesso Trump, che proprio nel momento in cui ha dichiarato ma io rappresento la collettività di Pittsburgh e non quella di Parigi, con una battuta ironica anche un po' sprezzante in riferimento al fatto che lui difende la comunità del suo paese e anche la tradizione industriale americana, il sindaco di Pittsburgh gli ha risposto subito dicendo: sì, però io sono a favore degli accordi di Parigi, quindi come la mettiamo? C'è infatti si annuncia tutta una resistenza anche all'interno degli Stati Uniti da parte di governatori di alcuni stati, sindaci di grandi città. Elon Musk, lo ricorda la sindaca di Parigi intervistata appunto dal Corriere, capitano d'industria che produce auto elettriche dalle grandi prestazioni, che ieri ha deciso di interrompere subito la collaborazione con l'amministrazione Trump, per la quale era consulente, ma dopo questa decisione ha deciso appunto di abbandonare. Perché la domanda è questa: cosa pensa dell'idea di Trump che l'accordo di Parigi freni lo sviluppo economico, che è il grande motivo per il quale Trump ufficialmente dichiara di disdettare gli accordi di Parigi? Questa visione dimostra, risponde la Hidalgo, che il presidente americano è veramente un uomo del passato. La transizione energetica può infatti trasformarsi in una grande opportunità economica, gli imprenditori più capaci e innovatori lo hanno capito, e cita proprio Elon Musk. Ancora su questo fronte, dicevamo, l'opposizione che va delineandosi negli stessi Stati Uniti. Ci sono Andrew Cuomo, governatore di New York, ma ci sono i colleghi della California, dello stato di Washington, che insieme, questi tre stati, rappresentano oltre un quinto del PIL americano, quindi una fetta, tre stati di avanguardia dal punto di vista politico e ambientale, ma anche dal punto di vista economico, che è il punto di vista che interessa a Trump. E ancora Colorado, Massachusetts, Connecticut, eccetera, e insomma anche i sindaci di 61 città importanti. Se vogliamo, anche per capire i contenuti di questo disaccordo, domanda e risposta di lo scienziato Mario Tozzi, che risponde alle domande che in qualche modo la posizione trumpiana, che va detto non è isolata, anche in Italia ci sono estimatori della posizione di Trump, negazionisti della questione del clima, sostenitori di uno sviluppo che non deve avere limiti quasi di nessun tipo, eccetera. E allora, tra le obiezioni si dice: ma il clima sulla Terra è sempre cambiato, no? Qual è la novità? Risponde Mario Tozzi: tutti gli scienziati ammettono che il clima terrestre non è costante, solo che l'attuale riscaldamento è più accelerato di qualsiasi altra volta in passato. Oppure ancora, l'uomo non c'entra con il riscaldamento globale, altra grande obiezione del fronte, diciamo così, negazionista guidato da Trump. Risponde Mario Tozzi: nell'ultimo anno, su più di 3.000 pubblicazioni scientifiche verificate, solo una non attribuiva all'uomo la causa del riscaldamento globale. Cioè, se il senso comune, la politica, il segretario dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente americana, Scott Pruitt, uomo di Trump e altri come loro, sostengono ma l'uomo non c'entra sui cambiamenti climatici, dall'altra parte c'è il fronte degli scienziati che è pressoché univoco nel dire no, non è così, l'attività umana c'entra e come. Oppure, altra grande obiezione, ma gli ghiacciai non si sono sciolti, sono ancora lì, risponde Mario Tozzi: i satelliti testimoniano che l'estensione dei ghiacci polari è diminuita in modo irregolare ma continua negli ultimi decenni, dagli 11,4 milioni di chilometri quadrati che c'erano di ghiacciai nel 1979, siamo scesi a 10,6 milioni di chilometri quadrati nel 2008, vado a spanne, un 10% in meno di estensione dei ghiacciai in questo lasso di tempo, che sono circa 35 anni. Ancora, poi sugli altri argomenti, però questo naturalmente è un argomento che prende molta attenzione, sempre sulla questione del clima. Ma è un'intervista di uno scienziato italiano che naturalmente, oltre a spiegare come e perché si tratti di un disastro, questa posizione del presidente americano Trump per la scienza, però entra anche in alcuni dettagli che possono essere interessanti da approfondire, da capire. Si tratta di Marco Tedesco, glaciologo della Columbia University, un italiano all'estero, un cervello italiano non in fuga, ma insomma impiegato in una importante istituzione americana, e dice: Trump dice tutto il contrario di tutto, è difficile capire come si muoverà, ma di fatto con le sue decisioni e con il taglio dei fondi, delle risorse economiche, ha reso difficile la vita sia alla Environmental Protection Agency, cioè l'Agenzia per la Protezione Ambientale americana, che alla National Science Foundation. Ma quali saranno in concreto le conseguenze della mossa di Trump? Le emissioni aumenteranno, paradossalmente però rischiamo di non sapere quanto, perché sotto la scure dei tagli, infatti, sono finiti anche i programmi della NASA per il monitoraggio dei gas serra dallo spazio e quelli della protezione ambientale, dell'Agenzia per la protezione ambientale. Fino a ieri il rapporto sui gas serra veniva pubblicato ogni anno, chi ci dice che continuerà ad essere così anche per il futuro? Le ricerche, altra domanda, sulle rinnovabili non hanno abbastanza abbrivio per procedere anche da sole senza i fondi pubblici, i privati andranno avanti, risponde questo scienziato italiano in America, questo glaciologo, ma perdere l'appoggio del governo avrà ovviamente il suo peso. Questo avviene proprio adesso, quando anche le grandi compagnie petrolifere avevano capito l'importanza della lotta per l'ambiente. Ci mettiamo dentro anche la Exxon, che ha varato un piano di sviluppo americana, tutto centrato sul, molto centrato anche sulle energie rinnovabili. Dunque, questo è il dibattito che ruota attorno alla posizione di Trump e all'addio all'accordo di Parigi. Ci fermiamo, 349 per il traffico, 349-238-6666 se volete intervenire anche su WhatsApp. Torniamo tra pochissimo in diretta dal Festival dell'Economia di Trento con ancora la lettura dei giornali, una veloce rassegna stampa che ci accompagna fino al giornale radio delle 8. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ecco. Eccoci qua, quando sono le 7:46 minuti, riprendiamo in diretta da Trento per questa rassegna stampa e insomma, abbandoniamo l'argomento Trump, l'argomento clima, che è titolo ancora oggi su quasi tutti i giornali di oggi, ma dicevamo ampio spazio è dedicato alle baruffe interne sulla questione della legge elettorale che agita la politica. Grillo salva l'intesa con Renzi, scrive il Corriere della Sera, il leader del Movimento 5 Stelle, gli iscritti hanno dato il loro via libera online, il ministro Boschi che dice l'accordo terrà, Rosato del Partito Democratico, siamo pronti a una mediazione, i dubbi dei costituzionalisti sul nuovo testo, e questo è il titolo principale del Corriere della Sera su questo argomento che indirettamente anche argomento di su Repubblica, dove il titolo è dedicato però ad un sondaggio che riguarda la forza del Movimento 5 Stelle, giovani operai e in crescita al sud, ecco i nuovi elettori del Movimento 5 Stelle. Vediamo velocemente il Movimento 5 Stelle che va forte, diciamo l'identikit del suo elettore medio è giovane tra i 30 e i 44 anni, lavoratore autonomo, imprenditore, residenze al sud e alle isole, questo è l'identikit. Ma interessante la fotografia invece per quanto riguarda la leadership, perché nel giro di 4 anni si è affermata inesorabilmente quella di Di Maio, tallonato però da Di Battista. Oggi la credibilità tra gli elettori del Movimento 5 Stelle di Di Maio è al 45%, quella di Di Battista al 32%, Grillo è sceso all'8%, quando invece 4 anni fa Grillo era diciamo il leader assoluto, incontrastato, non era neanche immaginabile scalfire quel 77% di popolarità tra gli elettori del Movimento 5 Stelle, che oggi è scesa all'8%. Quindi il movimento sta cambiando, la leadership carismatica di Grillo si sta indebolendo e comincia a aumentare il peso delle figure politiche come quella di Di Maio e Di Battista. Poi ci sono altre sfumature, le trovate su un articolo come sempre di Ivo Diamanti, molto interessante. Ci sono anche le posizioni degli elettori del Movimento 5 Stelle sull'immigrazione, prediligono la logica dei respingimenti a quelli dell'accoglienza, sulla sicurezza. Ritengono sempre giusto reagire con le armi quando un ladro aggressore si introduce in casa, hanno però fiducia nelle istituzioni dell'Unione Europea, nonostante tutto, pensano che la democrazia possa funzionare anche senza partiti, e questo è, come sappiamo, un tratto distintivo del Movimento 5 Stelle. Su questa vicenda però è interessante anche un altro punto di vista, come quello per esempio del Fatto Quotidiano, giornale vicino, non pregiudizialmente ostile al Movimento 5 Stelle, anzi, adesso però il titolo è tedesco all'italiana, legge elettorale, 5 Stelle dicono no ai pluricandidati ma i nominati sono molto peggio. Scrive Marco Travaglio, a furia di sentirsi dire che devono accettare i compromessi e sporcarsi le mani, i 5 Stelle stanno facendo entrambe le cose con la legge elettorale e non è un bel vedere. Ieri Beppe Grillo ha silenziato i mormorii interni, soprattutto di Roberto Fico e Paola Taverna, che definivano il testo dell'accordo niente meno che un nuovo porcellum. Attenzione, un nuovo porcellum, quindi la definizione è quella che si sta dando a questo sistema elettorale tedesco. Grillo ha richiamato tutti gli eletti del Movimento 5 Stelle all'ordine, a rispettare il mandato, dopo che sulla piattaforma online il modello tedesco è stato votato con il 95% delle preferenze. Ricorda Travaglio, verissimo, dice però peccato che quello che hanno votato gli elettori del Movimento 5 Stelle non c'entra nulla col modello tedesco in sé. E spiega come e perché. Una differenza, ricorda Travaglio, è che in Germania gli elettori hanno due schede, danno due voti che possono essere disgiunti, un voto al candidato uninominale del collegio che, se votato, il più votato viene direttamente eletto, e poi uno al listino dei partiti. Qui invece avremo una scheda solamente, non sarà possibile in Italia fare voto disgiunto, quindi diciamo una correzione meno maggioritaria in Italia che non rispetto al sistema già proporzionale tedesco. Poi c'è la questione, per esempio, in Germania vengono eletti tutti i candidati uninominali, quelli scelti direttamente dagli elettori, invece in Italia dovranno mettersi in coda rispetto a quelli votati sul listino proporzionale, perché per via del fatto che il numero dei parlamentari in Italia è fisso, in Germania è mobile, c'è anche quest'altro particolare a rendere ancora una volta meno maggioritario il modello che si sta importando in Italia di legge elettorale tedesca rispetto all'originale. Andiamo però adesso su altri titoli di altri giornali, vediamo per esempio il Sole 24 Ore, titola, c'è un'intervista a Matteo Renzi oggi sul Sole, al segretario del PD, no ai diktat europei su banche venete, la manovra non va sprecata, dice Renzi, stop all'IVA, tagliamo le tasse, quindi il mantra renziano che viene ripetuto, quello di abbassare le tasse. Viene ripetuto anche nell'intervista al Sole 24 Ore che bisogna però dire che da qualche tempo ha cominciato a rivolgere un appello, una richiesta, una valutazione a governi in carica di appunto valutare l'abbassamento delle tasse, benvenuto, quello sul cuneo fiscale sicuramente super benvenuto, però la politica dei bonus fiscali, per esempio, è stata criticata dal Sole nelle ultime settimane, sarebbe preferibile un piano di investimenti pubblici in infrastrutture che sono una chiave fondamentale dello sviluppo italiano e che mancano all'appello, come ricorda spesso in prima pagina sul Sole, si ricorda nelle ultime settimane, da alcuni anni mancano gli investimenti all'appello. Tutto sommato Renzi tira avanti per la sua strada e promette una manovra di meno tasse, tagliamo le tasse, questo sul Sole 24 Ore di oggi. Ancora che dire, per esempio sulla Stampa, siamo quasi in chiusura, c'è spazio per una polemica che riguarda il decennale della morte di Luciano Pavarotti, perché Verona e Modena si stanno litigando il concerto che sarà una parata di stelle e che concerto pop contro messa di Verdi. Verona e Modena litigano per Pavarotti, scrive la Stampa, perché se il 6 settembre saranno 10 anni dalla scomparsa di Luciano Pavarotti, da quando la vedova Nicoletta Mantovani ha annunciato che il concertone commemorativo che si era sempre fatto a Modena si sarebbe spostato nella meravigliosa cornice testuale dell'Arena di Verona, apriti cielo, a Modena non l'hanno presa bene, è partita una polemica, qualcuno però ha ricordato a quelli di Modena che non sono stati capaci di sfruttare il brand di Pavarotti adeguatamente in questi anni. Credo che manchi un minuto, giusto il tempo, sempre dalla prima pagina della Stampa, di commentare una foto, notizia curiosa, Barcellona, i turisti, meglio i rifugiati. Ebbene, così, stop ai turisti, scrivono su dei cartelli alcuni cittadini spagnoli che manifestano sulla Rambla di Barcellona, non ne possono più perché in Spagna ci sono troppi turisti, nonostante Barcellona invece sia città in prima linea nell'accoglienza dei rifugiati. Questo evidentemente non disturba i cittadini barcellonesi e spagnoli tanto quanto l'ondata che ogni anno, ogni estate arriva di turisti in Spagna e che crea problemi di convivenza evidentemente da quelle parti. Noi ci fermiamo qua, adesso linea al giornale radio con Si può fare, ci troviamo subito dopo, a più tardi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Otto e 15 minuti, buongiorno di nuovo da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. In doppio collegamento dal Festival dell'Economia di Trento, dagli studi di Radio 24 in piazzetta Mario Pasi, e invece Carlo... E invece io sono a Milano perché un po' perché... Stabilmente. Sì, un po' perché ormai è diventato un must il clima a Milano in via Monterosa, quindi non potevo venire anch'io a Trento e dimenticare Milano dove c'è il sole, siamo contenti, fa molto caldo, si sta bene. Anche qua a Trento, sole su tutta Italia, anche se se qua è prevista qualche pioggerellina in giornata, quindi avvisiamo gli ascoltatori che come sempre le nostre previsioni del meteo, che non sono previsioni ma sono constatazioni, sono polaroid di quello che c'è. E l'altro motivo per cui non sono a Trento è perché ho due cuccioli di gattini e non potevo abbandonarli a casa da soli, gli devo dare da mangiare. È la prima... sei iscritto anche tu al partito animalista. Sì signori. Non me ne fregava niente, adesso sono innamoratissimo dei miei due cuccioli. Lo sai che oggi Libero fa una fotografia del partito animalista e vi quota a un potenziale 15% degli elettori. E quindi siamo dentro anche con il blocco alla tedesca, siamo dentro in qualunque modo. Siete tantissimi. Juve, portala a casa. Io mi sono dimenticato di leggere la prima pagina della Gazzetta in rassegna stampa, ma la leggo adesso. È una cover ben augurante, naturalmente. Poi si spera che la cover di domani sia ancora più da incorniciare. E insomma, stasera finalona, dovremmo star lì a parlare solo di questo. La Juve è la squadra più amata e più odiata, naturalmente. Esatto. Però sono italiani, quindi in qualche modo oggi ci stringiamo per patriottismo. Ci stringiamo attorno e vi chiediamo, cari ascoltatori, all'800 24 00 24, come sempre, per giocare con noi questa mattina, per portarsi a casa un libro a tema, la telefonata che ci divertirà di più, i vostri racconti epici, le vostre finali, i vostri viaggi in macchina per raggiungere i luoghi delle finali di Coppa dei Campioni, un tempo, di Champions League, adesso, o i vostri riti scaramantici. Naturalmente se siete tifosi della Juve o della squadra italiana in gioco, oppure riti propiziatori di tipo gufesco, se invece avete deciso nonostante tutto di remare contro, si può stare anche quello. Ovviamente ci interessano anche le impressioni di chi invece magari le finali non l'ha guardata ma era di fianco o al marito o alla moglie molto tifosa e non aveva nessuna voglia di vedere la partita, eppure che cosa ha fatto il giorno della finale. 800 24 00 24, adesso andiamo a iniziare, vai! Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano? Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire? Lo sai che il DNA è lungo più dell'equatore? Lo sai che c'è uno spirito anche dentro ad un motore? Lo sai che i grandi mistici hanno braccia forti e i grandi calciatori c'hanno i piedi storti? Lo sai che nella pancia può ascoltare i suoni? Lo sai che anche i malvagi fanno gesti buoni? Lo sai che ogni tramonto è l'alba di un vampiro e che le idee future sono già in giro? Lo sai che proprio adesso un uomo sta morendo? Lo sai che proprio adesso un bimbo sta nascendo? Lo sai che proprio adesso lo stiamo vivendo? E qualche cosa proprio ora ci stiamo scambiando? Falla girare così che tutti la possano vedere. Falla girare così che tutti la possano sentire. Falla girare. Allora, la facciamo girare e lo chiediamo a Enzo Favoino, coordinatore del comitato scientifico Zero Waste Europa e nonché esperto ambientale della scuola agraria del Parco di Monza. Enzo, ciao. Ciao cari, ciao. Buongiorno. Dai, che ci prendiamo il fresco del mattino. Esatto. Posso dire una cosa? Mi scrivo anche subito, vai, gli così, animalisti. Sì. Allora, Carlo ha due gatti, io ne ho tre, più le relative pulci, quindi se lui va in segreteria io almeno la presidenza. Assolutamente, non mi permetterei mai, ma io sono assolutamente un novellino e sto imparando tutto. Ho comprato... Ci proviamo e ci scambiamo le istruzioni. Molto così volentieri. Mi Allora, Enzo Favoino, falla girare, giovanotti, dice, facciamo girare questa economia, perché noi dal Festival dell'Economia di Trento vogliamo rilanciare forte e chiaro questo messaggio sull'economia circolare, perché voi di Zero Waste la sapete lunga, avete anche fatto recentemente una ricerca a livello di tutti i paesi europei che dimostra che su questo nuovo fronte dei rifiuti, che non sono più rifiuti, ricordiamocelo, diciamolo, Rossano Ercolini e Enzo Favoino ce lo ricordano sempre, i rifiuti sono materie prime importantissime che servono per l'economia circolare, noi siamo abbastanza bravi, Enzo, diciamolo subito, in Italia, nonostante le notizie di cronaca che non mancano, dalla Sicilia dove Crocetta riapre tutte le discariche, a Roma dove Galletti dice ma il piano della Raggi non è abbastanza ambizioso, ci vogliono gli inceneritori, ma noi invece, Enzo, diciamo, siamo bravi a fare la raccolta differenziata, a fare l'economia circolare, lo dimostrano casi virtuosi eccezionali che vengono a studiare anche dall'estero. Ripartiamo da qua. Sì, quante cose che ci sono in questa tua produzione, mamma mia. No, però è bello, hai scelto benissimo il pezzo, il falla girare, ma c'era anche una frase all'inizio: le apparenze non ingannano, in realtà a volte le apparenze ingannano. E, perché noi abbiamo fatto questa ricerca, allora facciamo un piccolissimo, brevissimo riassunto. Dunque, luglio 2014 c'è stata la prima proposta del pacchetto economia circolare, la Commissione aveva proposto gli obiettivi del 70% di recupero materie. Dicembre 2014 la Commissione Europea, la nuova Commissione Europea diceva no, vogliamo preparare un pacchetto più ambizioso, che però noi a dicembre del 2015 conferma, noi piace la matematica, loro preparano il nuovo pacchetto economia circolare con l'obiettivo del 65%, allora noi abbiamo detto ma come funziona la matematica a Bruxelles? Avete detto dovevate farlo più ambizioso, invece portano l'obiettivo al 65%. Ci hanno tolto 5 punti percentuali. Sì, ma noi vogliamo, sapete che noi siamo sempre felici ma mai soddisfatti e quindi li abbiamo marcati da stretto. Giusto, no, è un'ambizione regressiva direi questa. Esatto, allora la novità più importante è stato il fatto che a marzo di quest'anno l'Europarlamento ha approvato la sua proposta, il cosiddetto rapporto Bonafede, che ha preso il nome dalla relatrice per conto dell'Europarlamento, la nostra europarlamentare, che ha riportato gli obiettivi al 70%, quindi allo stato attuale abbiamo due proposte sul tavolo, quella della Commissione al 65% e quella dell'Europarlamento al 70%, rimane il convitato di pietra. Voi sapete che sono tre le istituzioni europee che si confrontano nella cosiddetta trilaterazione delle decisioni, manca il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo. Sì, quella cosa per cui non si capisce mai alla fine chi è che decide. Che cosa si è deciso, soprattutto. Cosa e chi decide, va bene, però... Ecco, moltiplicate detto la questione, la difficoltà del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo per i 28 Paesi membri, fra poco 27, ma insomma c'è un discreto campionario delle varie posizioni. Quindi noi ecco, che cosa però arrivando fatto? Quindi ai giorni nostri, Enzo, caro Enzo, Favorino, la conclusione del tuo ragionamento, perché poi voglio arrivare alle cose belle dell'Italia, Milano, Parma, Capanno, Treviso. Qual Bravo. È la conclusione di questo tuo ragionamento? Allora, la conclusione è che ovviamente c'è una grandissima varietà delle posizioni espresse dai vari Paesi membri. Noi abbiamo fatto questa cartina interattiva, quando dico noi, sono state varie associazioni ambientaliste, network ambientaliste a livello europeo, c'è dentro Zero Waste Europe che io rappresento, i Friends of the Earth, cioè Amici della Terra a livello europeo, c'è dentro l'Ufficio Europeo dell'Ambiente, e ci siamo accorti di una stranezza che poi stranezza non è, cioè che i paesi che normalmente vengono considerati arretrati sono quelli che in realtà stanno chiedendo gli obiettivi più ambiziosi, tra questi ci mettiamo paesi del Sud Europa come la Grecia, la Spagna, la Francia, e invece i paesi del Nord Europa che normalmente vengono rappresentati come modelli di sostenibilità i più virtuosi, anche, quelli che noi veneriamo, quelli che si oppongono agli obiettivi più avanzati, ecco. In particolare la Danimarca, la Danimarca della però quale abbiamo casca ragionato tante volte. Diciamolo, come? Sottolineiamolo, perché questi paesi, c'è un motivo per cui questi paesi probabilmente sono diventati meno ambiziosi, perché? Perché la Danimarca, che senz'altro un modello di sostenibilità, ad esempio nella mobilità sostenibile o nella produzione energetica da fonti rinnovabili, nella gestione dei rifiuti invece è un campionario di criticità clamorose. Perché loro, bruciano. Ricordate che già altre volte avevamo fatto la matematica dei rifiuti, chi brucia il 60%, certo. Perché hanno 28 inceneritori in Danimarca. Oh, eccolo qua il punto, eccolo qua. Come quindi può Danimarca, raggiungere il 70% sono... di raccolta differenziata? Perché a casa mia, io non so a casa tua certo. Alessio, ma a casa mia 70 più 60 fa 130, no? Ma sarebbero un po' troppi. Perché loro, bruciano il 60 e poi in realtà riciclano anche il 70 solamente di quel restante 40%, e questa è la verità, o no? Ah, forse vorrebbero fare il calcolo così semplificato. Temo che non sarà possibile. Anche perché vuol dire che alla fine è il 17%. È molto interessante questa cartina dell'Europa rovesciata, nella quale per una volta i paesi che noi consideriamo leader, guida, i paesi del Nord Europa, i paesi scandinavi, la Danimarca, eccetera, non sono in testa, ma sono i paesi mediterranei. E anche l'Italia può dire la sua da questo punto di vista dell'economia circolare. Il fatto che ce l'avete insegnato, il cassonetto dei rifiuti, che quasi non esiste più, non è pieno di rifiuti ma è pieno di materie prime. Per un paese come l'Italia che ne ha poche di materie prime è una risorsa fondamentale. E allora però nonostante, ripeto, dalla cronaca di questi giorni si può accingere da vari fronti. C'è la Sicilia, dove il governatore Crocetta ha firmato l'altro giorno per riaprire le discariche, ha la polemica tra il ministro dell'ambiente Galletti e il sindaco Raggi su Roma, dove Galletti dice ci vuole comunque un inceneritore, ma Roma dice di no, e anche Favorino dice di no, però non ne può parlare perché è consulente sulla questione di Roma. Però diciamo che in altre città, Enzo Favorino, noi abbiamo già raggiunto obiettivi straordinari che vengono a studiare anche dall'America: Capannori, Treviso, Milano, Parma, è così? Sì, noi abbiamo già parlato ampiamente in passato, ad esempio quando ci venne a trovare la delegazione della città di New York. In realtà ci sono un paio di novità interessanti da questo punto di vista. Una, la cito subito, fa riferimento ai cugini transalpini. La città di Parigi il 4 maggio ha deciso di introdurre per 120.000 abitanti, due arrondissement, due municipi, la raccolta differenziata dello scarto di cucina. E loro stessi, nel loro materiale informativo, fanno esplicito riferimento al modello di Milano, che abbiamo portato più e più volte a visitare e che hanno studiato in lungo, in largo, in alto, in basso, eccetera, eccetera, eccetera. Ma poi sul fatto che l'Italia sia un campionario del meglio e del peggio, questo è un concetto che abbiamo più volte ribadito. In realtà come media nazionale ormai abbiamo raggiunto dei livelli assolutamente importanti di raccolta differenziata, perché abbiamo di poco superato il 50% di raccolta differenziata. Sul totale dei rifiuti urbani, sì. Cioè noi su questa cosa dobbiamo ripetercelo come un mantra, dobbiamo ripetercelo, perché noi italiani non siamo abituati a ritenerci bravi, no, a fare qualcosa, a essere virtuosi. Siamo in Europa tra i più virtuosi a fare la raccolta differenziata, a fare la raccolta dell'umido. L'ultimo progetto riguarda per esempio la città di Bologna, dove la ERA, che è una grande multi-utility che ha al suo interno anche tanti inceneritori di scariche ma fa anche tanto recupero, annuncia che con lo scarto dell'umido di questa importante città italiana verranno alimentati a biodiesel gli autobus, insomma i mezzi pubblici. Pensa se si riuscisse a fare a Roma subito una cosa del genere, cioè si risolverebbero due problemi in uno: i cassonetti, Enzo, e anche la lentezza dei mezzi pubblici a Roma. Questa di Bologna è solo l'ultima notizia. Cosa mandiamo a dire però al ministro Galletti a questo punto? Gli inceneritori non servono. Allora, io rispondo a Galletti con le parole dello stesso commissario europeo all'ambiente Carmen Uvella, che quando venne alla seduta congiunta delle commissioni ambiente di Camera e Senato disse che l'Italia, al di là di indubbie aree di criticità, il nostro problema è proprio l'estrema varietà dei tassi di raccolta differenziata che ci sono in diverse aree regionali, aree geografiche, ma disse che l'Italia stava ospitando le esperienze più avanzate che dimostravano la praticabilità degli obiettivi di raccolta differenziata, degli obiettivi di recupero materie, e citò le nostre esperienze di rifiuti zero, Capannori, Treviso, Parma, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che hai citato su Bologna è vero, tra l'altro non è neanche il primo progetto di questo tipo, e devo dire la verità, perché ce ne sono già e il settore sta evolvendo anche in quella direzione, non solo in quella direzione. È un sogno, no, quello di poter, Enzo, alimentare idealmente le automobili, i mezzi, sì, pubblici. Sì, lo fanno già da tempo, peraltro dell'umido. In Svizzera, ma gli svizzeri sono extracomunitari. No, però è un progetto bellissimo, anche perché per una volta è molto chiaro anche al cittadino perché sta a occuparsi di tenere le bucce di banana separate dalla plastica, perché poi direttamente arriva che gli autobus, anzi addirittura ho letto sulla questione di Bologna, che con questo metano poi si potrebbe usare per il riscaldamento. Allora se uno in casa propria risparmia, cioè si occupa di questa questione e poi paga meno di riscaldamento, ecco che forse l'economia circolare è veramente spiegata molto bene. Circola meglio anche nelle tasche. È assolutamente così. Noi comunque separiamo l'organico anzitutto per restituire sostanze organiche ai terreni. Nel caso di questi percorsi che puntano alla produzione di biometano c'è un altro effetto collaterale, che è la produzione di una fonte energetica rinnovabile, che può essere utilizzata anche per i fornelletti domestici, perché va a sostituire il gas naturale, gas fossile, quello è metano fossile che noi vorremmo importare dall'Azerbaigian, invece potrebbe essere prodotto tramite questi processi. Certo. Tra l'altro la produzione di biometano potrebbe evitare alcune delle criticità connesse alla digestione anaerobica di tipo tradizionale, perché in quel caso se si faceva la combustione in loco del biogas allora c'era una concentrazione in loco degli impatti, invece, ma temo che qua stiamo andando verso eccessive tecnicalità, quindi ritorniamo. Esatto. Il sogno resta quello di poter ficcare direttamente nel serbatoio le bucce di banana, ma questo credo che ci vorrà ancora un po'. Perché invece stiamo lavorando. Certo. 800 24 00 24 agli ascoltatori, ricordo, se vogliono intervenire per raccontarci le loro criticità, per esempio per quanto riguarda la raccolta porta a porta, che spesso e volentieri va incontro a queste criticità, ma poi porta anche un livello di raccolta altissimo e tante soddisfazioni per i comuni che stanno applicando tariffe puntuali, quindi un risparmio anche sulla tariffa della gestione dei rifiuti, anche per le tasche del cittadino, come ricordava Carlo, sta accadendo per esempio a Livorno, dove è stata appena annunciata. Enzo Favorino, però perché per esempio in Sicilia ancora oggi non si trovano delle soluzioni come quelle di cui stiamo parlando noi? E questo è veramente il peggio, possiamo dirlo, in questo momento dell'Italia, perché Crocetta ha firmato per riaprire le discariche, che invece andrebbero chiuse. Allora, attenzione, attenzione, si fa presto a dire Sicilia, perché è vero, come media regionale la Sicilia allo stato attuale pare essere la regione più arretrata. Poi noi abbiamo l'esempio immediatamente prossimo analogo della Sardegna, che invece, avendo puntato con convinzione sulla raccolta differenziata, pur avendo le stesse criticità, un'economia insulare, turistica e quant'altro, è da tempo ampiamente sopra il 50% e viene individuata come modello di riferimento da situazioni analogamente turistiche in giro per l'Europa, tant'è vero che a ottobre, come Zero West Europe, organizzeremo un tour di studio della Sardegna proprio perché è stata presa modello di riferimento. Però in Sicilia, siccome a noi piacciono i dettagli, sì, i dettagli della virtù, vi dico semplicemente, tra il 2015 e il 2016 i siciliani che facevano meno del 10% di raccolta differenziata sono passati da 3 milioni a 1 milione e 2, quindi è diminuita la quota dei siciliani che fanno poca raccolta differenziata. Quelli che fanno più del 50% di raccolta differenziata sono intanto passati da 150.000 a 700.000 siciliani. E pur si muove anche in Sicilia, è che c'è una però, Sicilia che si sta muovendo e che sì, accidenti, quindi la domanda non è tanto ma i siciliani saranno in grado di fare la raccolta differenziata, perché molti stanno dimostrando di essere in grado. E la risposta è certo che sì. Lo fanno in quel comune, perché non lo fanno nel comune accanto? Questa è la domanda. Molto giusto, che non è una questione dei siciliani, nel senso che tutti i siciliani sono assolutamente in grado, certo, di fare la differenziata, ma giustamente ci sono comuni più lungimiranti che si occupano di questo e altri comuni che un po' se ne fregano. Bravo Carlo. Posso tornare al tema Galletti molto brevemente? Manda un messaggio per chiudere al Ministro dell'Ambiente, sì, Galletti, sì, che noi vorremmo fossi tu. La nostra cifra distintiva, sì, però certo. Galletti qualche settimana fa è stata dai nostri campioni rifiuti zero, il distretto Contarina, provincia di Treviso, 550.000 abitanti, certo, 50 kg abitanti hanno di rifiuto residuo, record mondiale per area vasta. E ha detto nelle sue parole: il consorzio Contarina è la dimostrazione che i percorsi rifiuti zero sono praticabili. Sarà stata, bravo, una frase di circostanza, sarà stato l'omaggio dell'ospitante all'ospitato, però noi, cioè, abbiamo... Cioè, gli è uscita così, a sua insaputa, gli è uscita a sua insaputa, in modo scaglioliano, insomma, diciamo così. Però adesso speriamo e aspettiamo che... Sì. L'abbiamo rilanciata questa cosa, perché evidentemente, se la cosa è possibile a Treviso, e perché è possibile? Perché a Treviso non hanno gli inceneritori e quindi possono... Enzo Favorino, mi chiudi ripetendo qual è il record mondiale che abbiamo a Treviso, spieghiamolo anche a mia nonna. L'iniziazione del rifiuto residuo, cioè quello che avanza dopo le pratiche di riduzione, sì, raccolta differenziata. Quindi raccolto tutto, differenziato tutto. Mandano in discarica 50 kg abitante anno. Che è il record mondiale, noi, cioè non c'è una città al mondo che fa meglio di questo. No, pensate, a livello di area vasta, in realtà in Italia vasta abbiamo già diversi comuni che sono attorno, sì, a 20 kg abitante anno. Però area vasta vuol dire che stiamo parlando di una cittadinanza, di una provincia, Enzo, di una provincia, grossa, di una provincia. Certo. Sì, chiudiamo con questo e rilanciamo questo messaggio sovrano dell'economia circolare proprio qua dal Festival dell'Economia di Trento. Grazie a Enzo Favorino, Zero Waste, Parco Agrario di Monza, grazie per essere stato con noi. Grazie 800 mille. 24 00 24 agli ascoltatori, se vogliono intervenire per raccontarci le loro storie nelle loro città di come funziona la raccolta differenziata porta a porta, che è il futuro, ma che anche, lo sappiamo Carlo, tutte le volte ci chiamano, ci sono anche dei problemi. Certo. problemi vari, e noi siamo qua anche per accogliere i vostri sfoghi e poi anche, cari ascoltatori, per raccontarci i vostri aneddoti legati. Stasera c'è la finalissima. Carlo, tu la guarderai? Con chi la guardi? Certo che la guardo con il mio fidanzato, che però non è particolarmente interessato, posso ammettere. E invece gatti. Io molto. E con i gatti. Chissà se saranno più interessati i gatti o il tuo fidanzato alla finale di Champions. Questo ve lo racconterò domani. 800 24 0024, tra poco da Trento. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora eccoci qua di nuovo in diretta da Trento, dal Festival dell'Economia di Trento. Qui Radio 24 trasmette in diretta da Piazzetta Mario Pasi. Veniteci a trovare se siete nei paraggi. Abbiamo all'800 24 0024 Giovanni che ci chiama da Monza. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a voi. Buongiorno. Benvenuto. Su cosa volevi intervenire? Io? Giovanni? Sì. Sì, no, niente, perché lui ha chiesto un ricordo sulla Coppa dei Campioni vinta in qualche modo strano, giusto? Sì, non ti sentiamo benissimo, Giovanni. Se vuoi parlare, noi abbiamo chiesto agli ascoltatori di raccontarci. Hai un aneddoto su una finale di Champions? Sì, la prima che ha vinto il Milan a Wembley. Sì. Ah, beh, parliamo. Che anno era intanto? Quello non me lo ricordo purtroppo. Mi vergogno a dirlo perché il tifoso milanista, mi vergogno, non mi ricordo che anno. Deve essere 62, 64. Ma perché? Meraviglia, parliamo degli anni del calcio proprio d'oro, quello. Chi c'era in campo in quel Milan lì? Qualche nome te lo ricorderai? Mi ricordo due gol di Altafini. Eusebio dall'altra parte. E tu sei andato a vederti questa partita? In Svizzera, perché in Italia la televisione, siccome era mercoledì pomeriggio, temeva di turbare il lavoro degli italiani, non l'ha trasmessa in diretta. Cioè, mi vuoi dire che la finale di Coppa dei Campioni nel 1963 tra il Milan e il Benfica? Benfica non è stata trasmessa in Italia? No, siamo andati in macchina, io e il mio amico Vittadini a Chiasso, a vederla. E quando è uscito, è finita, siamo usciti, non so, il cracco, abbiamo preso la multa. Ah, ma pazzesco. La multa perché? Perché avevate vinto la partita? No, perché mi ha fatto il perché il vigile era interista? Prende la multa in Svizzera, Certo, avevamo immaginato, perché in Italia il giorno di Milan-Benfica credo che di multe non se ne siano fatte neanche una. No, di fatto. Giustamente. Comunque, non ero pronto, ricordo, sinceramente, per un racconto di questo tipo, per un aneddoto di questo tipo, cioè dover andare a vedersi la partita in TV, ma oltre frontiera, perché in Italia non venne trasmessa. Il motivo per cui non venne trasmessa, Giovanni, ti ricordi? Si sperava che fosse quello di che era un giorno lavorativo e si bloccava l'Italia, chiaramente. Ah, erano gli anni del boom economico e si lavorava, quindi poco spazio per perdite di tempo, tipo una finale di Coppa Campioni. Insomma, notevole questo racconto. Caro Giovanni, grazie. Ti iscriviamo sicuramente al nostro concorso di questa mattina. 800 24 00 24. Gianfranco da Roma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, io devo intervenire sulla nettezza urbana, sulla raccolta. Certo, prego. Chiami da Roma. Esatto. Come sta andando lì a Roma? Fanno schifo. Allora, mi faccia parlare, per favore. Prego. Sì. Allora, in via Oriolo Romano, a Roma, sulla Cassia, c'è un solo cassonetto scassato e puzzolente, dove, oltre a noi che siamo quattro famiglie, versiamo, portiamo la nostra immondezza, ci vengono dai circondari vicino e ne fanno un mucchio alto 4 metri per 8. Ma perché loro non hanno un cassonetto? Ho chiamato anche la nettezza urbana e mi ha risposto: non ci possiamo fare niente. Allora ho lasciato un cartello a coloro che svuotano questa marea di monnezza. Sì. Ho detto: guardate, nel vostro interesse fate mettere un cartello speciale che vengano a fare dei rilievi. Guarda Gianfranco, il cartello migliore, il cartello migliore che possiamo locali. Mettere Gianfranco è ricordare l'indirizzo di questa cosa. Segnaliamo all'azienda raccolta rifiuti dell'area di Roma dov'è questa cosa che accade. Gianfranco, stato di incendiare il cassonetto, o se no qualcuno deve venire a metterci la pezza. Sì, certo. No, Gianfranco, ricordiamo l'indirizzo esatto, perché così facciamo informazioni di servizio. Via Oriolo Romano. Perfetto. Andate in via Oriolo Romano, perché Gianfranco ci segnala che c'è una situazione insostenibile. Se poi avete delle segnalazioni un po' più generiche, secondo me, invece magari. Che proprio quella puntuale con il numero civico, che se no chiamiamo direttamente l'AMA. Allora, questo è il momento di raccontarvi, però dopo le brutte notizie che ancora Gianfranco da Roma ci stava raccontando, le 5 migliori notizie e buone notizie della settimana. Si può fare, vai! Allora, partiamo dal quinto posto con una notizia straordinaria che arriva da Alessandria, ed è questa qua. Il conservatorio di Alessandria, uno dei 20 conservatori italiani più importanti, non riesce ad ospitare tutti gli aspiranti musicisti, allora si è aperto un concorso in città per ospitare, in cambio di prestazioni musicali, gli aspiranti iscritti al conservatorio. Fatevi avanti anche voi alla mail info@conservatoriodivivaldi.it. È una buona notizia, una segnalazione al quinto posto. E al quarto posto invece servizio civile per i rifugiati, ovvero è stato firmato il protocollo d'intesa tra il ministro del lavoro, quello dell'interno e il dipartimento all'immigrazione per avviare progetti di servizio civile per i rifugiati. Come dice Domenico Manzione, sottosegretario del ministero dell'interno, dice: è un primo passo verso l'integrazione delle persone alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale o la protezione umanitaria. Quindi siamo molto contenti. Tutti possono dare una mano. Terzo posto, quindi siamo sul podio. L'Emilia Romagna ha una legge che finanzia le due ruote, il movimento dei ciclisti. Andate in bici, fa bene. 25 milioni di euro da spendere nei prossimi anni per fare nuove tante piste ciclabili, per collegare tra di loro quelle che già esistono. Già che ci siamo, facciamo un appello: fatele bene le piste ciclabili, larghe, collegate tra di loro coi semafori, perché sennò poi la gente non le usa e allora... Allora non servono a niente. Secondo posto, Carlo. Secondo posto, il fisco che si fa social e risponde su Messenger per il 7:30. È partita la cosiddetta seconda fase di assistenza delle entrate ai cittadini tramite Facebook. L'avevamo già visto sulla questione del canone TV. E adesso, sì, invece, da martedì 30 maggio è attivo sulla pagina Facebook dell'agenzia questo servizio di assistenza dedicato alla dichiarazione precompilata. Quindi siamo molto contenti, perché gli esperti dell'agenzia rispondono ai quesiti dei contribuenti anche dallo smartphone. Il servizio è gratuito da lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30. E chissà se basterà riconciliare gli italiani con l'odiato fisco. Esatto. E al primo posto c'è la notizia che tutti sanno: questa settimana l'Istat ha rivisto il dato sull'economia italiana. Finalmente andiamo bene, più 1,2%, dato migliore dal 2010. Quindi complimenti a tutti quelli che hanno contribuito, anche a quelli che non hanno contribuito, perché magari un lavoro non ce l'hanno, ma che amerebbero tanto contribuire a complimenti questo dato. Complimenti a tutti. Give me five. All right, give me five. All right. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Can we? Con questa Monument dei Mute Math salutiamo Gabriel Suchriegel, direttore del Parco Archeologico di Paestum. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto, ben ritrovato, caro Suchriegel, per parlare di una notizia che riguarda il parco di Paestum, il parco archeologico. Ce ne sono tante perché ci state dando dentro, state lavorando bene, turisti in crescita, il parco è uno dei meglio conservati al mondo, questa detta di tutti, merito suo ma anche di chi l'ha preceduta naturalmente, al via la campagna adotta le mura. Di che si tratta, Suchriegel? Allora, si tratta di poter diventare parte di una comunità, diciamo, di cittadini, però anche di persone da tutto il mondo che con una piccola donazione di 50 euro all'anno diventano, per così dire, genitori adottivi di un blocco, anche più, delle mura, che pagano così per la manutenzione. Adesso c'è un circuito murario delle meglio conservate dell'Italia, quindi si può leggere interamente il sistema difensivo, il sistema urbano di questo sito, in mezzo poi ci sono i templi. Parliamo di 4 chilometri di mura, giusto? Sì, e diciamo anche che sì. Può sembrare magari non una buona notizia, perché diceva a Paestum non hanno i soldi per pensarci loro alle mura, però credo che questo sia un modo anche per avvicinare le persone, fidelizzare i turisti, rendere partecipe, perché non credo che siano i 50 euro che possano fare la differenza, o invece sì? Allora, come in tutti i casi dove parliamo di questi rapporti, donazioni, coinvolgimento di privati, donatori, non si tratta semplicemente di trovare soldi che noi non abbiamo. Certo, i soldi servono sempre nella cultura, per la conservazione, anche per la ricerca che dobbiamo portare avanti, però non è semplicemente un buco che dobbiamo tappare, colmare, in qualche modo, ma l'obiettivo è di contribuire alla conservazione, ma anche di dare una possibilità alle persone di sentirsi partecipe, di partecipare insieme a noi a questa avventura. Quindi è anche la creazione di un rapporto, poi a questo sono legati dei benefici come l'ingresso gratuito al parco per questo anno in cui uno è genitore adottivo, poi organizziamo delle cose, però per molti non è questo il motivo principale, ma semplicemente la volontà per poter dire io faccio qualcosa per questo sito. Certo. Che per molti significa ha un significato. È chiarissimo, è creare anche comunità. È creare comunità, sì. E lo state facendo con varie iniziative, una è questa. Suchriegel, lei tra l'altro è stato solo sfiorato dalla questione della nomina dei direttori dei musei da cui sono stati esclusi i non cittadini italiani, vero? Perché se non sbaglio per un problema di notifica lei non è stato sospeso. Allora io non sono esperto di legge, io comincio adesso a conoscere tutto questo mondo, però speriamo che tutto rientra. Che si trova una soluzione in poco sì. tempo. Perché, però lei al momento è in sella, cioè lei è il direttore del Parco Archeologico di Paestum e non è stato sospeso, come invece è accaduto per altri, o no? Sì, è corretto, ma io spero che anche gli altri presto possano rientrare. Beh, insomma, noi l'avevamo detto in tempi non sospetti che il bando internazionale era per i direttori di musei e sovrintendenze italiane, era una buona notizia, poi se al Ministero hanno scritto male la norma o al TAR del Lazio l'hanno interpretata troppo letteralmente, staremo a vedere. C'è un ricorso al Consiglio di Stato, del governo. Non che avessimo bisogno, Suchriegel, io credo, in Italia di qualcuno che venisse a insegnare come fare a gestire un museo, ma quando parliamo di arte, cultura e turismo, l'esperienza, la visione internazionale aiutano, no? Questo era. Sì, anche io ho sempre detto, io non sono lo straniero che viene da fuori a cambiare tutto, io ho vissuto molti anni anche in Italia, ho imparato moltissimo dagli italiani, quindi io credo che bisogna proprio abbandonare un po' questo bipolarismo, no? Italiani, stranieri, finché siamo cittadini dell'Unione Europea. Esatto, siamo tutti europei, ci mancherebbe altro. Io ho anche colleghi, non per dire, però colleghi italiani in Germania, dai quali ho anche lì imparato moltissimo, quindi credo che lo scambio... È possibile, no? Questa reciprocità c'è in Germania, essere per esempio direttori di un museo nazionale tedesco, è possibile per un cittadino italiano, per esempio? certo, ma c'è anche la per esempio la mia amica Dirce Martore, che è la direttrice dell'Istituto Archeologico Germanico di Madrid, sì, che insomma ha questo incarico molto alto, prestigioso, e credo che faccia un bellissimo lavoro. Io ho potuto lavorare con lei tra Roma e Madrid nel passato, e credo che quindi gli esempi non mancano. In più, per chi avesse dei dubbi sulla bontà del fatto che anche degli stranieri siano direttori, va anche detto che i primi due che hanno adottato un blocco delle mura di Paestum sono due tedeschi, perché giustamente c'è il direttore tedesco, e quindi noi siamo felicissimi anche di questo. Giusto? Senta, sono... era un caso, diciamo. Certo, no. Lo so che non erano suoi amici. È vero, Zutrigger, che tra le varie iniziative a Paestum avete ridato vita anche ai gladiatori, ma non i figuranti diciamo abusivi, come accade a volte al Colosseo a Roma, c'è una vecchia polemica, proprio con una quasi una figura professionale per far vivere ai turisti una esperienza diversa. Sì, noi abbiamo fatto questa cosa con le associazioni, quindi sono associazioni che si occupano, sì, della rievocazione storica sulla base di un percorso scientifico, quindi non è una cosa completamente inventata. Ovviamente ci sono elementi meno documentati, però anche cose che sono abbastanza sicure, e quindi possiamo con loro far capire a famiglie, bambini, turisti. Siamo in chiusura, noi la ringraziamo comunque, Gabriel Zutrigger, direttore Parco di Paestum. Questa era le vicende di Paestum. Noi ascoltatori ci sentiamo tra poco, 800 24 00 24. Dopo il GR aspettiamo anche i vostri aneddoti, le vostre riti scaramantici prima della finale di Champions. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Resto in casa? Ah, no e no. Fuori c'è la crisi. Ah. C'è la crisi. E per Natale cosa mi regalerò? Buongiorno da Alessio Maurizi da Trento. E buongiorno da Carlo Gabardini da Milano. E buongiorno al professor Andrea Boitani, qui in studio con noi, benvenuto. Buongiorno. Quindi vince Trento su Milano 2-1. 2-1. Professor Boitani, La crisi, una scelta musicale vintage, era una canzone del 1979, questa di Ivano Fossati, però... Cioè, già c'era la crisi. Già c'era, era un'altra crisi però rispetto a quella di oggi. Era un'altra crisi. Crisi petrolifera, si parlava di... Però crisi vecchie, crisi nuove, i problemi sempre sono sempre gli stessi. Fino a un certo punto. Il professor Boitani, che è docente di macroeconomia e di economia monetaria all'Università Cattolica di Milano, autore del libro Sette luoghi comuni sull'economia, libro di La Terza, che viene a spiegare, a raccontare qui proprio al Festival dell'Economia di Trento. Auguri intanto, perché lei va a parlare a una platea comunque istruita, colta, anche di economisti, di pubblicisti, di persone che sanno, a sfatare, e gli va a dire: guardate che alcune delle cose che voi pensate, ritenete, credete, in realtà sono dei miti, delle bufale, si potrebbe anche dire, usando un'espressione contemporanea? Beh, insomma, bufale è un'espressione grossa, forte, naturalmente. Diciamo che i luoghi comuni sono delle cose strane, no? Perché è un po' come la calunnia di Don Basilio, una cosa che monta piano piano nel tempo. Alla base dei c'è sempre comuni, qualcosa. C'è sempre qualcosa, c'è sempre una qualche verità. È lì, diciamo, che sta l'inghippo spesso. E certo. Perché questa verità poi invece si trasforma. Poi si trasforma perché entra, diciamo, nel linguaggio di tutti i giorni, tutti quanti ne parlano, spesso, diciamo, dicono le cose senza le opportune qualificazioni, e quindi poi vengono fuori delle cose che uno dice: ma... Una dei motivi per cui ho scritto questo libro è che ho cominciato a sentir parlare quasi senza qualificazione di riforme. Dico, ma riforme, ma quali? Perché? Ah, perché questo delle riforme è una parola magica, è una parola magica. Uno dice, bisogna fare le riforme, le riforme. Ma dipende sono quali. Che si sente dire, no? Dipende quali, dipende cosa, dipende perché. Lei dice, guardate che per esempio un caso a me ha colpito l'Irlanda, lei dice... è cresciuta senza fare le riforme, è cresciuta per altri motivi, perché aveva dei settori economici che hanno trainato, e quindi senza passare per le solite riforme di cui si parla, eccetera, eccetera. Sì, vale anche per l'Italia, potrebbe valere anche per l'Italia. Ma guardi, io quello che dico è questo, cioè io non sono affatto contrario alle riforme, anzi, in particolare quelle riforme che vanno nella direzione della liberalizzazione dei mercati, laddove ovviamente è possibile e utile, sono molto favorevole, sono sempre stato. Ma quello che secondo me dovrebbe essere chiaro è che le riforme servono a mettere il paese o i paesi che le fanno su sentieri di crescita più alti, per così dire. Non sono quelle che servono a uscire dalla crisi. Altrimenti noi non potremmo spiegarci come mai che, chiaramente non è che l'Italia è diventata più rigida o meno riformata, per così dire, tra il 2007 e il 2009. No, non è cambiato sostanzialmente nulla. Però ci siamo fermati. Però ci siamo fermati. E poi, di nuovo, nel 2011 non è che l'Italia è cambiata in peggio dal 2010 al 2011. Quelle sono crisi, recessioni determinate essenzialmente dalla domanda. Allora, è evidente che per uscire da queste fasi in cui la recessione è causata dalla domanda, bisogna fare politiche della domanda. Il che non significa che non si possano fare contemporaneamente anche delle politiche di riforma, ma sapendo che queste politiche di riforma avranno effetto in un periodo di tempo più lungo per esempio. E quindi, che non è mai il tempo per esempio dei governi, che hanno fretta, vogliono vedere i risultati subito. Esattamente, cioè, esattamente. È così che si può spiegare anche la politica però dei bonus, no? Che hanno caratterizzato la stagione di governo che è ancora in atto, anche se poi c'è stato un cambio di governo, i famosi bonus contestati, che però ancora Renzi dice servivano proprio per il lato della domanda. Tra l'altro c'è un dato sul PIL questa settimana positivo, allora aveva ragione Renzi? Ma guardi, io su questa cosa dei bonus sono molto meno critico di tanti altri, di tanti colleghi, non perché quei bonus, o almeno tutti i bonus che sono stati dati, siano stati fatti bene, ma l'idea di mettere un po' più di soldi nelle tasche dei cittadini, in particolare dei ceti a reddito più basso, non era sbagliata, francamente. Sì. Ma, tornando però un attimo al caso irlandese, no? Perché molti, credo, di noi hanno in testa questo mito dell'Irlanda che è cresciuta tantissimo, è stato detto tutto il contrario di tutto. Lei dice quel caso va ricondotto a una capacità produttiva dell'Irlanda di attrarre investimenti in alcuni settori che hanno trainato, il settore farmaceutico, quello dell'economia digitale, eccetera. Quindi così si può spiegare il fenomeno Irlanda? Beh, certamente, innanzitutto l'Irlanda è un paese piccolo, è un paese che si era sostanzialmente svenato per salvare le banche negli anni 2008-2009 e anche 2010 e aveva improvvisamente visto aumentare il suo debito pubblico in maniera straordinaria, ma era bassissimo prima della crisi e è diventato uno dei più alti all'interno dell'Eurozona. La ripresa è avvenuta perché l'Irlanda è tornata sulle sue linee di azione tradizionali, che sono quella di attrarre capitali esteri, soprattutto delle grandi multinazionali, che poi esportano. Perché si pagano meno tasse, giusto? Si pagano meno tasse e perché c'è un'agenzia straordinaria, insomma, forse non riproducibile, che è capace di creare le condizioni per queste multinazionali a investire in Irlanda. Naturalmente questo ha determinato il fatto di attrarre imprese che sono capaci di esportare in tutto il mondo, ha creato un vantaggio competitivo dell'Irlanda e una capacità di esportazione molto notevole in settori in cui in realtà i salari, le retribuzioni crescevano molto più che non nel resto d'Europa. Quindi l'Irlanda è un caso tipico in cui diciamo, si è fatto l'esatto opposto delle raccomandazioni di Schäuble o della Merkel, cioè la svalutazione interna. Al contrario, gli stipendi dei settori trainanti erano stipendi in forte crescita. Quindi si può vedere che e naturalmente questo sosteneva anche la domanda interna in Irlanda. Quindi si è fatto, diciamo così, un po' l'esatto opposto di quelle che sono state le raccomandazioni per tutti i paesi. E ciò nonostante, anzi, si sono raggiunti risultati economici di crescita notevoli. Ma per, quindi è un, per luogo, è un luogo comune anche il fatto di dire che l'Irlanda ha pedissequamente seguito gli ordini della Comunità Europea? Certamente, è veramente un luogo comune. Ah. Ecco, un altro luogo comune. Visto che ne sfatta sette, sì. Già ne abbiamo sfattato uno e sono molto contento. E sono già dei pezzi grossi. Un altro molto molto grosso, devo dire, professor Boitani, è quello che riguarda l'euro. Perché qua si entra in un campo minato da tutti i punti di vista, da quello del cittadino comune che dice da quando c'è l'euro i prezzi sono raddoppiati, siamo rovinati, a quello del mondo della politica che rinfaccia, per esempio in Italia, molti alla Germania di aver avuto le sue convenienze con l'euro, di essere stata in grado di esportare molto di più di quello che faceva in passato. Perché invece, spiegata a mia nonna, l'euro non fa così schifo anche dal punto di vista economico? Allora, la mia tesi è che l'euro non ha fatto così schifo e non l'ha fatto soprattutto nei suoi primi 15 anni, diciamo, fino al 2007. L'Italia ne ha tratto beneficio, ne hanno tratto beneficio tutti i paesi europei. Basta pensare al fatto che i tassi di interesse sul debito sono scesi moltissimo. Ecco, poi, anche i tassi di interesse li paga anche mia nonna, spieghiamo anche questo, perché non è un fatto che non interessa al comune cittadino. Perbacco, il tasso di interesse, per esempio, se sua nonna ha un mutuo, ovviamente il tasso di interesse interessa parecchio, diciamo così. È una cosa avere un tasso di interesse sul mutuo del 4, del 5% l'anno, una cosa avere un tasso di interesse dell'1,5, del 2. Quindi questo è un fatto estremamente rilevante. E il problema è che l'euro era concepito come una moneta per tempi buoni, per quando le cose vanno bene. Quando le cose cominciano ad andare male, l'assetto istituzionale dell'eurozona non era più sufficiente e questo è stato... La gente confonde l'euro con quello che manca intorno all'euro e ritiene che bisognerebbe andare via dall'euro, uscire dall'euro, ammesso che sia possibile in realtà, invece di dire forse bisogna fare come in altri paesi che hanno adottato valute comuni, e cioè quello di costruire una federazione anche politica e anche fiscale. È la famosa parte che manca. Però questo, se posso, è difficile chiedere ai cittadini che capiscono che il problema in realtà non è l'euro, ma è tutt'altro, anche perché un po' quotidianamente, forse a chi getta benzina sul fuoco, ci viene detto è colpa dell'euro, usciamo dall'euro e allora staremo meglio. Nel senso che io, non essendo un economista, e la maggior parte degli italiani non lo sono, sintetizzano nella parola euro quello che giustamente lei sta dicendo. In realtà il problema è un altro, però è un problema più complesso che noi, è difficile che lo comprendiamo noi se non ci viene spiegato dalla stampa, da voi economisti e così via. Ma ecco, noi cerchiamo di farlo, devo dire, io ho cercato di farlo anche per parecchie pagine in questo libro. La stampa, i media hanno parecchie responsabilità, così come ce l'hanno avuto i politici e così come ce l'hanno avuto i media per la Brexit e anche negli Stati Uniti. La disinformazione è grande in giro e questo secondo me è un grosso problema. È chiaro che la gente comune non è che possa star lì a riflettere chissà quanto, però forse un argomento semplice da dire è, la più grande federazione del mondo, gli Stati Uniti, hanno una moneta unica. Questa moneta unica è arrivata dopo che la federazione era stata costituita politicamente e dopo che la federazione era stata costituita sul piano del bilancio, cioè fiscale. Vede, io già sono molto felice che lei me l'abbia rispiegato, perché io me l'ero dimenticata questa cosa. Veramente lo dico, è vero. 8:18 minuti, professor Boitani, resti qui con noi, se ha ancora qualche minuto, facciamo una piccola pausa sulle informazioni del traffico, 800 24 00 24, poi torniamo in diretta da Trento, vi aspettiamo cari ascoltatori anche per i vostri aneddoti su come vi accingete a seguire la finale di Champions, o su come avete vissuto in passato trasferte epiche, in macchina, eravamo in quattro sulla vecchia 1100 e siamo partiti per andare a vedere la finale, 800 24 00 24, siamo qua tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare come tutti i sabati e le domeniche mattina da Radio 24, questa che abbiamo appena ascoltato è Luoghi Comuni dei Fragil Vida, che è un gruppo di cui faceva parte l'ascoltatore che ci ha segnalato questa canzone e si chiama Gianluca Galletti. Immaginiamo che sia un omonimo, anche se in alcuni momenti ci piace pensare che invece sia proprio il ministro dell'ambiente. Beh, se Galletti chiama sarà, esatto, arrabbiato, perché stamattina lo abbiamo tirato in ballo dicendo che gli inceneritori non servono a niente. Esatto, però stiamo facendo sentire la canzone del suo gruppo, quindi siamo molto contenti. Abbiamo compensato. Come potete sentire, in realtà oggi siamo in onda sia da Trento, dove c'è quello bravo Alessio Maurizio, anche con l'ospite, e invece a Milano ci sono io. Per segnalarci i vostri si può fare in musica, perché noi siamo sempre in cerca di si può fare, sì, in musica, ovvero se siete dei cantanti, dei musicisti, dei compositori o anche semplicemente degli ascoltatori e sentite in una canzone che secondo voi ben racchiude il concetto di si può fare, vi chiediamo di segnalarcela. Lo potete fare inviandoci i vostri si può fare in musica alla nostra mail sipuofare@radio24.it, oppure sui nostri profili Facebook si può fare trattino radio24, Twitter chiocciola si può fare 24, oppure sui nostri account personali, il mio è chiocciola Carlo Gabardini. Oh, ce l'abbiamo tutti, eh. Tu c'hai anche Snapchat, che a me fa sempre molta paura. C'ho anche Facebook. Sì, sono su Snapchat. Vabbè, ma lo uso poco, devo dire, perché Snapchat adesso fa paura. A me il nome di Snapchat mi fa paura. Ma basta chiamarlo Schnaps e passa la paura subito, così, con un ciupito. E allora, con noi in studio qua a Trento il professor Andrea Boitani, di nuovo, che è il vero buongiorno. Motivo per cui mi spiace di non essere a Trento, perché volevo, esatto, conoscere l'autore. No, lo dico veramente. Beh, ci sta tenendo una piccola lezione, se vogliamo, tratta dal suo libro che è Sette luoghi comuni sull'economia, che tra l'altro verrà in qualche modo oggi ripetuta, ma a beneficio di tutto il pubblico, qui al Festival dell'Economia di Trento, appuntamento alle 18. Per ci sarà anche Padoan, incontro. Ho visto, sarà, è giusto? Ci sarà anche, sì, Padoan, è vero. Quindi auguri. Ecco, tra i sette luoghi comuni da sfatare ce n'è anche uno abbastanza imponente, che è quello del debito pubblico. Lei dice, il luogo comune è c'è il debito pubblico, ci vuole l'austerità. E invece lei dice, no, non è così, ma vale anche per l'Italia, possiamo spendere quindi? Allora, lo dirà Padoan, ovviamente, sarà felice. Sì, ma io credo che lui lo sarebbe, ma insomma... Non è così semplice. Non è così semplice, intuisco, naturalmente. Allora, innanzitutto la prima cosa da sfatare è che il debito pubblico di un paese non è la stessa cosa del debito privato di una famiglia. In generale, un paese non è una famiglia, così come un paese non è un'impresa e via di seguito. Sono cose diverse. Quindi che anche l'amministratore debba essere un buon padre di famiglia, forse è un luogo comune, il numero 8 che possiamo sfatare. Sì, sì, sì, anche 8, 9, insomma. O anche che un, come dire, che bisogna prendere raccomandazioni politiche dai manager. Questo è una, che ma se ce li sfata tutti i miti e poi dobbiamo farla primo ministro. Questo mi pare molto improbabile, quindi né è detto che accetterei. Ma insomma, il punto secondo me in questa faccenda è questo qui. Quando noi parliamo di debito, parliamo in realtà del rapporto tra debito e PIL. E come in tutti i rapporti, il valore dipende da cosa c'è al numeratore e da cosa c'è al denominatore. Cioè, allora, se l'economia cresce, il PIL cresce, allora possiamo sostenere un debito anche maggiore. Cioè. Allora, la cosa che si può dimostrare, che è stata dimostrata con ricerche empiriche di un certo livello, pubblicate su riviste scientifiche di valore, è che quando le economie sono in recessione, una politica espansiva della spesa, e in particolare una politica espansiva della spesa per investimenti, ha l'effetto di ridurre il rapporto debito-PIL nel giro di 1-2 anni, cioè l'esatto opposto di quel che recita il luogo comune. Questo non significa che sempre e comunque bisogna spendere di più per far ridurre il rapporto tra debito e PIL. Per esempio, quando l'economia è in crescita, in forte crescita, l'aumento di spesa genera un aumento del rapporto debito-PIL, perché fa aumentare di più il debito di quanto faccia aumentare il PIL. Quindi le ricette sono diverse a seconda della situazione in cui l'economia si viene a trovare. Non è possibile pensare che le ricette siano le stesse in tutti i momenti. Quindi, i luoghi comuni vanno dissezionati, ahimè. Non è possibile. Ci vuole un po' di sforzo, bisogna un po' impegnarsi. Va bene, i luoghi comuni, va bene sfatare i luoghi comuni, però il messaggio del professor Boitani è anche questo: impegnatevi un po', cioè cercare di capire, perché altrimenti non può essere tutto così semplice. Questo è Andrea Boitani, 7 luoghi comuni dell'economia da sfatare, argomento che tratterà anche oggi in un dibattito con il ministro Padoan qui dal Festival dell'Economia di Trento. Resti con noi, professor Boitani, voglio farle ancora un paio di domande, spiegate a mia nonna magari anche l'Alitalia, perché fra l'altro lei è anche membro di una commissione ministeriale su questo, però voglio sentire gli ascoltatori all'800 24 00 24. Dario ci chiama da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto Dario. Ecco, su cosa voleva intervenire? Ho sentito, sì, questo del debito pubblico viene praticamente non fatto certamente dai cittadini che comunque pagano le tasse, la maggioranza dei cittadini, no? E poi anche quelli che non pagano le tasse. Esatto. Però secondo me sono i politici, qualche politico, che magari per mettersi in luce fa di quelle opere che poi sono inutilizzabili. E questo gravano poi alla fine su chi? Su noi cittadini. Dario, la sua definizione delle opere inutilizzabili me la segno, me la porto a casa, perché che servono soltanto per il consenso, lei dice, è una delle vie attraverso cui cresce il debito pubblico. Dario, era per questo che aveva chiamato, se vuoi rimanere in linea tra poco sarà con noi come ascoltatore giurato di Crowd Me Up, come sempre due progetti di crowdfunding che cercano il nostro aiuto, e grazie agli ascoltatori faremo una piccola competizione. Giovanni da Bergamo, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Benvenuto Giovanni. Buongiorno. Io in realtà volevo condividere con voi un aneddoto su una finale di Coppa dei Campioni, visto che ho avuto la fortuna di assistere dal vivo all'ultima finale, ahimè 10 anni fa, del Milan. Ah. Purtroppo sono passati già 10 anni. Ricordaci qualcosa, l'ultima finale del Milan, ma è stata anche l'ultima finale dell'Italia? No, di sicuro, perché è stata purtroppo quell'altra squadra a righe nerazzurre. Esatto. E poi la Juve che nel 2015 Giovanni, però raccontaci qualcosa, raccontaci la tua, raccontaci quella del Milan. Ma allora, quello che vi potrei raccontare un sacco di cose, però due cose che mi sono rimaste impresse, quelle senz'altro. La prima è che nel tragitto dallo stadio, allo stadio, avrei potuto rivendere il biglietto almeno 10 volte facendoci un sacco di soldi. Diventando ovviamente milionario. Dove era la finale? Dove si svolgeva la finale? Ad Atene. Contro il Liverpool. Tenete presente che noi saremmo stati in rapporto di 1-3 rispetto ai tifosi del Liverpool. C'è un sacco di tifosi che erano partiti anche con camper piuttosto che con autovetture, facendosi tutta l'Europa. Quindi 10 anni fa, all'alba della crisi, della famosa crisi di cui stavamo parlando adesso, alla faccia della crisi, avresti potuto rivendere il biglietto a che prezzi? Incredibili. Ma allora, io quello che vi posso dire è che all'aeroporto di Atene ho visto questo signore evidentemente del Liverpool, visto la maglia che indossava, che aveva un cartello che tradotto in italiano diceva: cerco un biglietto, pago in cash, e aveva nella questo cartello nella mano, una valigetta, e nella mano destra aveva un rotolo di euro, un rotolo. Vi posso garantire che a occhio e croce penso che avesse avuto qualche migliaio di euro in mano. Ho la sensazione che abbiamo fatto una sintesi della storia della comunità europea, perché ci sono gli inglesi con la Brexit, c'è il costo, siamo ad Atene, c'è un po' tutto. Poi abbiamo con noi un economista che adesso ci spiegherà, secondo me, la metafora che sottende a questo aneddoto. No, però un momento, Giovanni, a me interessa anche capire se tu hai ceduto per un momento all'idea, al dubbio di vendere il biglietto, la passione sopra di tutto. Anche perché, se vi ricordate, quella era una finale che aveva una serie di significati dietro, perché era una rivincita di una finale persa in maniera assurda 2 anni prima. Però potevi magari mettere a posto e sanare il nostro debito pubblico, scusa. Quello, cioè, la vendevi agli inglesi, secondo me era fatta. Era fatta. Ma era il 2007, non sapevamo ancora cosa sarebbe successo nel 2008. Vabbè. Giovanni, giusto per ricordarci come è andata a finire poi, giusto per ricordarcelo, come è andata? È andata a finire che il Milan ha vinto 2-1, doppietta di Pippo Inzaghi, felici, tutti contenti, una finale bruttissima da un punto di vista veramente. Ma tanto tecnico. Non gliene frega niente a nessuno che la finale sia bellissima, ovviamente tutti vogliono solo che al momento del fischio del 90° minuto la squadra italiana sia in vantaggio. Grazie Giovanni, complimenti. Beh, insomma, anche questo racconto ci mancava, noi ne aspettiamo degli altri all'800 24 00 24. Professor Boitani, prima di lasciarla al Festival di Trento, sull'Alitalia, anche qui spiegato, non è un luogo comune da sfatare, perché non è l'ottavo e il nono del libro, però potrebbe entrare. Perché, spiegata a mia nonna, l'Alitalia continua a fallire ma non fallisce mai? Ma dunque, l'Alitalia innanzitutto non è detto che non fallisca questa volta, perché ci sono dei commissari che hanno lo scopo di vedere se è possibile, diciamo così, salvare e collocare questa azienda diversamente da come lo è stata negli ultimi 9 anni. Oppure se debba essere chiusa, se debba passare a una procedura fallimentare, oppure debba essere venduta a pezzi, diciamo così. Quindi questa volta non è detto che non fallisca. Il problema che uno dovrebbe risolvere, e quindi la domanda da farsi, è perché si è andata sempre così male. Da prima con la gestione pubblica, poi con la gestione privata dei famosi capitani coraggiosi, volenterosi, poi volenterosi, coraggiosi, eccetera, eccetera, e poi con Etihad. Io credo che ovviamente non è facile ritirare su una compagnia che è andata tanto male come era andata l'Alitalia nei primi anni del nuovo secolo, ma fondamentalmente l'Alitalia ha un modello di business sostanzialmente sbagliato, e questo modello non è stato corretto dal 2008-2009 in poi, e questo ovviamente ha fatto sì che continuasse a precipitare. Ma dal business sbagliato lei si riferisce al fatto di aver rinunciato per esempio al lungo raggio, di essere entrata magari in competizione con le low cost sulle tratte intermedie, o addirittura con il treno su Roma-Milano, che oggi appare imbattibile, cose di questo genere. Esattamente, cioè, il problema è che se uno vuol competere con le low cost deve avere una compagnia low cost. Questo mi sembra, cioè, sembra un'ovvietà, mi sembra un luogo comune difficilmente sfatabile, in questo caso. E d'altra parte è anche vero che sul lungo raggio bisogna avere gli aerei per farlo, il lungo raggio, e bisogna avere un network per fare il lungo raggio con profitto, altrimenti bisogna avere inventato il low cost di lungo raggio. Ci stanno provando adesso varie compagnie, non so se ha visto Norwegian, una politica molto competitiva. Però insomma bisogna inventarsi delle cose nuove se uno vuole avere 2 o 3 voli e non un network internazionale. Purtroppo l'impressione è che l'Italia, nonostante tutti i propositi, non abbia fatto quello scatto che avrebbe dovuto fare per salvarsi. Con l'inevitabile amaro in bocca della vicenda all'Italia, noi ringraziamo il professor Andrea Boitani. Il nostro Si può fare economico di questa mattina era questo: 7 luoghi comuni sull'economia da sfatare. Grazie per essere stato con noi, buon festival dell'economia. Grazie mille a lei. Carlo, noi ci risentiamo tra poco, anche con, certo, gli ascoltatori, 800 24 00 24, siamo qua. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Alle 9:37 minuti siamo di nuovo in diretta. Alessio Maurizi da Trento e Carlo Gabardini da Milano. L'avete riconosciuta, è la sigla di Crowd Me Up. È il momento di presentarvi due progetti scelti dalla piattaforma di Apple. Due progetti che cercano il vostro, il nostro aiuto con il finanziamento dal basso, il crowdfunding, ma trovate tutte le notizie anche sulla pagina di Si Può Fare, sul sito di Radio 24 e anche alla pagina di Crowd Me Up. Abbiamo i nostri due ascoltatori che abbiamo appena sentito, Dario da Milano, buongiorno, ben ritrovato Dario. Sì, la ringrazio molto, sì, buongiorno. Ecco, buongiorno. E anche Giovanni da Bergamo, buongiorno. Eccoci. Detto anche Giovanni da Atene. Esatto, che ci ha raccontato l'aneddoto sulla finale di Champions 10 anni fa, Milan-Liverpool. Altri racconti li aspettiamo vostri all'800 24 00 24. Adesso, cari ascoltatori, restate belli concentrati perché andiamo a presentare il primo dei due progetti. Vai! Si chiama YES ed è l'acronimo di Your History, sempre in inglese, ahimè, e quindi io sto facendo in questi mesi di Si Può Fare anche un corso di inglese forzato. È un servizio che consente di digitalizzare la storia scolastica di ogni studente. Durante gli anni della scuola, infatti, ogni studente, ogni famiglia accumula chilogrammi, lo sappiamo benissimo, di fogli e di quaderni. YES si occupa proprio di archiviare in cloud tutti questi ricordi, raccoglie i vecchi quadernoni e li ricicla per produrre una nuova carta green. Per sostenere il progetto servono però 10.000 euro, ce ne parla Mauro Ferri, fondatore di Caderby Media. Buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto Mauro. Quindi anche a te un minuto di tempo, poco più, per spiegare come e perché possiamo sostenere questo progetto di, possiamo chiamarlo, di digitalizzazione della memoria scolastica. Sì, sì, certo. Ma allora, penso che a tutti noi un po' sia capitato di sfogliare un vecchio album di foto di famiglia, quello dei nostri figli quando erano piccoli, aver rivissuto quel momento, quell'emozione, quel pezzo di storia personale che la fotografia in qualche modo aveva immortalato. Però così come le foto ci aiutano a ripercorrere un po' la nostra vita, i nostri affetti, allo stesso modo pensiamo che anche i primi disegni fatti all'asilo, i quaderni delle elementari, fino agli appunti dell'università, facciano parte della nostra storia e che essi siano un po' legati ad emozioni e ricordi. Eppure mentre le foto quasi nessuno le butta, i quaderni di disegni nostri o peggio dei nostri figli prima o poi arrivano ad invadere le nostre case, appunto un po' da essere costretti a rinunciarvi. Ed è questo il motivo che ci ha spinto a pensare a YES, una sorta di album fotografico digitale del nostro percorso educativo. I genitori possono registrarsi al sito, richiedere un kit per l'invio dei quaderni oppure consegnarli nelle scuole convenzionate o nei punti di consegna itineranti. E poi noi i quaderni appunto li prendiamo, li maceriamo e ne facciamo nuovi quaderni per l'anno scolastico successivo, così insomma da ricreare questo ciclo virtuoso e totalmente ecosostenibile. È stato precisissimo nei tempi. Ma però devo chiederti sì, una cosa, perché io sono un collezionatore compulsivo, quindi non butterei via mai i miei quaderni di scuola. La cosa che mi chiedo, cioè, il vostro progetto è per incentivare il riciclo dei quaderni di scuola o è per incentivare il fatto che prima di buttarli via voi li digitalizzate questi quaderni di modo che rimangano i disegni di quando eravamo bimbi? In entrambe le cose, no? Un po' è legato a questa valenza del ricordo, e quindi dato che ormai lo sappiamo, cioè 10-20 kg all'anno di carta prima o poi si buttano, a meno che non abbiamo delle case che ci consentano di tenerli, certo. È un peccato perdere questa memoria, quindi teniamo il ricordo, però rendiamo questo tutto ecosostenibile, perché comunque, cioè, 10-20 kg di carta buttati, macerati, non in modo ecosostenibile, comunque hanno un impatto sull'ambiente. Quindi anche qui questa valenza un po' del futuro, di riconsegnare ai nostri figli, vuol dire, un mondo sostenibile. Perfetto. Anche perché la carta per noi ha comunque una valenza educativa ancora, non solo il digitale. Certo, giusto, però giusto, è vero quello che voi dite, che uno tiene, accumula quaderni, poi arriva un momento nel quale fai l'ennesimo trasloco e dici, beh, basta, adesso buttiamo via, e si perderebbero le memorie di questi momenti della vita scolastica nostra, dei nostri figli. Invece grazie a questo progetto che digitalizza non accadrà più. Adesso è il momento di presentarvi il secondo progetto di Crowd Me Up di questo sabato, quindi ascoltatori restate concentrati, vai. Si chiama Stage Diving ed è uno spazio online dove gli appassionati di musica possono indicare, sentite bene, il loro artista preferito, la città dove vive la persona, quanti chilometri sarebbero disposti a percorrere per vederlo in concerto e infine quanto pagherebbero per il biglietto. Avete già capito dove stiamo andando a parare. Quando il desiderio degli utenti è chiaro, Stage Diving organizza appunto il concerto, cioè l'evento, trovando la location e mantenendo il prezzo d'ingresso in linea con le indicazioni degli utenti. Un progetto futurista da un certo punto di vista. Per aiutarli servono 10.000 euro. Sentiamo Massimiliano Moltrasio, che ne è l'ideatore. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno a voi. Buongiorno. Benvenuto. Ciao. Anche a te un minuto di tempo, poco più, per spiegare come e perché sostenere questo progetto Stage Diving. Ok, perché noi amiamo la musica, fa parte della nostra vita da sempre, e con Stage Diving vogliamo fare in modo che tutti i concerti che organizzeremo siano eventi speciali e che ogni persona che ci verrà si senta parte dell'organizzazione fin dall'inizio. Non dovrei farti andare bene il concerto che qualcuno ti ha proposto, perché noi chiediamo qual è la band, qual è l'artista che vorresti vedere dal vivo, e se sei un artista o fai parte di una band, aiutiamo a far sentire la musica nei locali italiani. Come giustamente dicevate nell'introduzione, Stage Diving è uno spazio online, e in questo spazio ogni utente può dirci chi vorrebbe sentire live, proprio il loro nome. Quanta strada sarebbe disposto a fare per andare al concerto che veramente volevate vedere e quanto vorreste pagare il biglietto d'ingresso, perché in questo modo avremo molto chiaro le vostre preferenze, potremo contattare il locale più vicino a voi che ci avete richiesto l'artista e manterremo il prezzo d'ingresso in linea con quello che ci avrete detto. Fondamentalmente con questa campagna di crowdfunding suertera vogliamo rendere Stage Diving più local, esattamente come anche perché... le band locali. Sì. Massimiliano, voi esistete in realtà già da un po' di tempo, quindi io ho detto un progetto futurista, ma in realtà già esiste e funziona. Avete organizzato già dei concerti, com'è andata? Sì, sì. Allora, diciamo che come in ogni evento è un'incognita, e direi che comunque dopo 3 anni siamo contenti del lavoro che abbiamo portato avanti. Anche perché... occorre una mentalità nuova anche da parte chiaramente del pubblico per entrare sì. in questa idea di organizzare gli eventi musicali ad hoc. Io a questo punto chiedo agli ascoltatori, Dario da Milano in primis, di dirci per quale dei due progetti propendi, quale dei due voteresti e finanzieresti. Dario, ma guardi, io su questo argomento non sono dentro, di conseguenza non potrei scrivermi, ecco. Nessuno dei due si sbilanci. Cavolo, non è mai successo, Dario, io glielo dico, non è mai successo che un ascoltatore non abbia scelto uno dei due progetti. Evidentemente non lo interessa né la musica né la scuola e la memoria scolastica. Dario, ancora un secondo per ripensarci. Guardi, ecco, sulla memoria scolastica va bene, sono d'accordo che anche lei ce l'avrà avuto qualche quaderno di suo figlio, sì, che non sapeva. Io non mi libererei mai dei quaderni di mia figlia, di conseguenza li tengo gelosamente custoditi. Perfetto, perfetto, è come diciamo, me, un è mezzo come voto, me. Un mezzo voto per yes, ma direi che è proprio meno di mezzo. Forse allora tutto è nelle mani di Giovanni da Bergamo. Quale dei due progetti, Giovanni, sceglieresti? Allora, sono due progetti interessanti entrambi, ma posso il mio voto, anzi un voto e mezzo al primo dei due sicuramente. Ah, colpo di scena, quindi si conferma la scelta sul progetto Yes, Your History, quindi vince da questo punto di vista Mauro Ferri col progetto Yes, e quindi la possibilità di digitalizzare la memoria scolastica nostra, dei nostri figli, questa app, ma naturalmente noi lo ricordiamo esatto, ogni volta. Esatto, come c'è diciamo un sempre, non c'è un progetto che vince, li trovate entrambi sulla piattaforma di Apple e ognuno può fare la propria scelta. 800240024, cari ascoltatori, noi torniamo tra pochissimo dopo la pausa sul traffico in diretta dal Festival dell'Economia di Trento. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Nel passato con questa Madonna del 1987, beh, dopo la crisi di Ivano Fossati del 1979 siamo avvicinati un po', ma siamo sempre in una zona vintage, caro Carlo. E soprattutto un tuffo nel mare, tuffo, direi, per quello che stiamo andando a raccontare, sempre... di isola si tratta. Qua a Milano, esatto, tutto bene comunque, c'è il sole, il mare purtroppo no. Ancora non ce l'abbiamo a Milano, no. Però abbiamo un'isola, ce l'abbiamo, un'isola bonita, ma super bonita. Parliamo della Capraia, che sta sviluppando progetti di Smart Island ed è già un'isola da primato nel Mediterraneo. Ne parliamo con Sofia Mannelli, fondatrice dell'associazione Chimica Verde Bionet. Buongiorno Sofia. Buongiorno. Benvenuta. A voi, grazie di averci ascoltato e sentito, buongiorno. Allora, io spero con tutto me stesso che tu sia collegata in questo momento proprio dalla Capraia, oppure mi dia, ragazzi, è così, dopo l'evento io sono rimasta qualche giorno per chiudere le attività, tra l'altro sono anche residente a Capraia, quindi non mi è difficile. E poi è giugno, isola meravigliosa. Esatto, Capraia come è straordinaria. Come si chiamano gli abitanti della Capraia? Capraiesi. Capraiesi, tu sei una capraiese, Sofia, ma sei anche una donna impegnata in una rete importante che riguarda la sostenibilità. Nello scorso fine settimana avete radunato in Capraia decine e decine di scienziati da tutto il mondo per parlare di questo progetto. Ce ne parli anche a noi? Esatto, abbiamo radunato un gruppo di esperti, in realtà internazionali come il livello, ma tutti italiani, perché ci siamo resi conto, lavorando su altre isole, che Capraia era l'unica del Mediterraneo già con energia 100% rinnovabile grazie a un vecchio progetto dell'Enel Green Power. E quindi sono dei motori a biodiesel, l'isola non è collegata elettricamente con il continente e qui ci sono motori a biodiesel e quindi è una partenza un po' faticosa sul biodiesel, la sostenibilità, ma è un biodiesel sostenibile. È una notizia incredibile, giusto? Nel senso che non è collegata al continente ma è totalmente autosufficiente dal punto di vista energetico. Sono 20 le isole così in Italia, esatto, le isole minori non interconnesse. Però la Capraia possiamo dire che è la prima isola forse ad averlo fatto? La prima isola 100% rinnovabile dell'intero Mediterraneo. Beh, pensate, cari ascoltatori, noi che come abbiamo già detto anche in apertura non siamo abituati a darci delle pagelle con dei buoni voti, in questo caso pensate che l'isola di Capraia in Toscana è la prima isola di tutto il Mediterraneo ad essere energicamente autosufficiente con il biodiesel e quindi praticamente utilizzate gli scarti dell'agricoltura? No, questo è i mitici oli che provengono da lontano, transesterificati e trasformati in biodiesel. Proprio per questo la nostra associazione, unita al CNR, unita a Kyoto Club e all'associazione Itabia, una storica associazione sulle biomasse, ha detto non ci basta e noi vogliamo lavorare anche sulla mobilità sostenibile, sugli edifici, sui rifiuti. E questo sono il concetto di Smart Island e noi ancora abbiamo detto non ci basta ancora, vogliamo lavorare sull'agricoltura, sulla pesca, sull'ecoporto per rendere quest'isola totalmente sostenibile con tutte le attività. Non vi basta mai, direi. Non ci basta mai, e noi ne siamo molto contenti. Per questo vi ho scritto, si può fare con voi alla perfetto. Giusto. Ecco, brava, possiamo trovare anche una definizione in lingua italiana o dobbiamo di Smart Island? Sì, Capraia Smart Island, diciamo, mi fa molto ridere. Isola sostenibile, già andrebbe bene, un'isola totalmente sostenibile già mi piacerebbe. Ma forse Capraia, forse la parola, proprio l'espressione giusta è Capraia, che significa Smart Island. Sei un genio, bellissimo, bellissimo. Utilizziamo direttamente la Capraia. Un aiuto incredibile nella società di navigazione, ci ha portato qui perché tutti gli esperti mi dicevano il viaggio per andare a Capraia, Sofia, è tanto lungo, sono 3 ore di viaggio andare, 3 ore a tornare. È faticoso. E allora l'amministratore delegato della società, che è la Torre, mi ha detto la possiamo trasformare la nave in un centro congressi, mai fatto. E quindi ci hanno dato tutta una zona e noi abbiamo lavorato come matti, proprio era un'idea che veniva una dietro l'altra da tutti. Ma che meraviglia, amici, perché diciamo anche una cosa... Siamo arrivati poi sull'isola, sì, che non ce ne siamo neanche accorti. Diciamo anche una cosa a beneficio degli ascoltatori, potrebbe sembrare una questione minore, quella di rendere autosufficiente dal punto di vista energetico un'isola piccola, anche come la Capraia, ma proprio partendo dalle criticità di un'isola, risolvere le questioni energetiche dell'approvvigionamento ma anche della gestione dei rifiuti in un'isola vuol dire trovare soluzioni tecnologiche anche d'avanguardia, e per questo il progetto è finanziato dal Ministero ma anche dell'Europa, quindi Sofia, parliamo di un progetto abbastanza di ampio respiro. Beh, il progetto non è finanziato per adesso, queste sono idee di esperti che sono venuti qui, tutti a loro spese, questa secondo me è altrettanto smart, altrettanto incredibile, e altrettanto sostenibile. Speravo che foste già finanziati, no, siete in cerca di finanziamento. Ma noi abbiamo grande fiducia, perché quando hai un'isola pilota, i confini del sistema sono ben definiti, poi la puoi replicare in qualunque altro territorio, non necessariamente isolato completamente. Cosa vedi in questo momento dal tuo osservatorio alla Capraia? Mare intorno, immagino, mare bellissimo. Ma vedo un mare bellissimo, delle bougainvillee in fiore che sono uno spettacolo, gente che cammina, l'isola si è riempita in questi giorni di persone per camminare, per fare il bagno, l'isola ha dei colori incredibili, e quindi vi aspettiamo al prossimo evento, tra un anno ci sarà di nuovo... Faremo vedere alla popolazione con un altro convegno come quello che abbiamo fatto per spiegargli che si voleva fare. Spero che voi possiate venire con noi e la toccate con mano. Grazie, molto volentieri. Sofia Mannelli del progetto Capraia Smart Island. Io attorno a me invece vedo Trento che si risveglia, la città di Trento, tutti pronti per il Festival dell'Economia. Quanto tempo abbiamo? Direi che tu hai fatto Trento e io faccio Capraia, che dici? Alessio. Direi che mi sembra una sintesi ottima, meglio, molto meglio per te da questo punto di vista. Isabella dalla provincia di Roma, in 30 secondi per chiudere, un'ascoltatrice. Ciao, benvenuta. Ciao. Senti, io non riesco mai a avere informazioni circa la possibilità di riciclare tessuti. In casa abbiamo tanti bei tessuti, anche sete, che non si possono trasformare in abiti, ma io non posso gettarle nell'indifferenziata. Cosa ne dobbiamo fare? Ragione, ma non ci sono ragione. Nella sua città quei cassonetti gialli dove raccolgono i vestiti, quelli buoni li riusano e quelli non buoni riciclano i tessuti. Roma ha avuto un problema di mafia, per cui questi cassonetti sembrava che fosse di cooperative. Ci informiamo noi che siamo, esatto. Si può fare, Isabella. Comunque abbiamo sentito anche noi dei vostri problemi di mafia, volevo dire. Cari ascoltatori, è tutto per oggi, direi per questa puntata. Io ringrazio tutti quelli che sono stati al nostro ascolto. Con Si può fare ci risentiamo domani 8:30-10, sempre in diretta dal Festival dell'Economia di Trento. Quindi un ringraziamento ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Filippo Reggi in regia, oggi a Milano invece la squadra di Milano, Marco Lombardo, Andrea Roccabella, Elena Ligios, Davide Cioccia. Ciao Carlo, noi ci risentiamo domani. Buona giornata da Alessio Maurizi. E buona giornata e buon sabato da Carlo Gabardini qui a Milano, e domani ci risentiamo. E a chi ci ascolta.